Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Mercanti di parole rubate, gossipari, pennivendoli che infestano Camera e Senato muovendosi al loro piacimento. Beppe Grillo ce l'ha ancora una volta con i giornalisti. Vadano fuori dal Parlamento disciplinati in appositi spazi e per un'intervista chiedano un appuntamento, scrive sul blog, chiudendo il tutto con un paio di canonici vaffa. Un post piombato proprio mentre a Montecitorio era in corso una conferenza stampa in cui alcuni deputati 5 Stelle facevano il punto su tutte le iniziative in favore delle imprese finora presentate ma sempre bocciate dalla maggioranza di governo. Inevitabile però che le domande virino presto sul post e sui toni di Grillo. Questa è la sede di una conferenza stampa e questo è il luogo in cui voi dovete essere, non di certo chiusi dietro una porta. Faccio subito una premessa. Oggi l'ultima delle mie intenzioni è fare una difesa d'ufficio della categoria dei giornalisti. Non mi interessa, non in questa sede, e non mi interessa nemmeno fare l'ennesimo attacco di maniera verso Beppe Grillo, che sin troppo presta al fianco molte volte ad essere attaccato, soprattutto sulle questioni di forma, sullo stile espressivo. No, mi interessa molto, mi intriga, mi diverte e mi ispira a riflettere questa mattina su quanto abbia a che fare con la contemporaneità, con la cultura digitale, con la leggerezza e la sventatezza nel mettersi continuamente in gioco attraverso un flusso ininterrotto di possibilità di giocarsi relazioni con tantissime persone, il fatto di tornare a un'iconografia così antica, così terrificante, così spaventosa, così legata a periodi oscuri come quella del soldato inglese illustrato da Gino Boccasile, immagino più o meno dovrebbe essere del 1939, il manifesto a cui fa riferimento Grillo, che sta con l'orecchio teso e il ghigno sadico e cattivo del nemico, c'ha scritto tacete sopra, il nemico vi ascolta. Un periodo in cui l'Italia aveva necessità di coesione, proprio perché era un momento in cui stava sgretolando, si stava traballando tutto il grande impero dell'ideologia fascista. Ha senso oggi, secondo voi, dare questo messaggio, al di là che poi delle fattispecie specifiche che analizzeremo nei singoli punti, quanto sia corretto l'attuale rapporto fra giornalismo e politica, quanto i politici abbiano possibilità di esprimersi attraverso forme autonome e via dicendo, però il concetto è questo. Non sarebbe più esatto oggi dire, affermare, proclamare come strumento e grimaldello per rimuovere tutto ciò che c'è di cascame, di antico, di ammuffito nel pensiero, nell'organizzazione, nei rapporti tra uomini e istituzioni, dire al contrario, parlate, parlate molto, parlate proprio perché c'è un nemico che vi ascolta. 800 24 0024. Che se siamo in queste condizioni la responsabilità la possiamo avere qui davanti, eccola qui. Noi ce la prendiamo con la politica, ma senza un'informazione così, una politica così non ci sarebbe mai stata. Siamo cittadini come Pizzarotti, e Pizzarotti è un gigante qua, è un gigante. Entra in un comune con un miliardo di deficit. Vado avanti procedendo gradualmente, per ordine, per livelli di approfondimento sempre possibilmente più complessi. Partiamo proprio dal fatto specifico, al di là di tutti i pregiudizi che uno può avere o può non avere. È corretto dire che il giornalista parlamentare deve essere messo in una sorta di recinto, lontano dalle istituzioni? Fa parte del mestiere dell'informatore, del giornalista, del comunicatore, usare tutti gli strumenti al fine di raggiungere una notizia? O c'è un eccessivo abbassamento di livello di profondità dell'informazione in Italia, il giornalismo parlamentare ridotto nella caccia all'indiscrezione, nel riferimento all'indiscrezione a un altro personaggio rispetto a quello che ha lasciato andare all'indiscrezione, quindi la costruzione della notizia attraverso poi i sistemi, secondo me impropriamente superficialmente usati, di immediata diffusione delle notizie, che può essere magari un tweet raccolto, rilanciato e rimandato. Questo lo chiedo subito a un collega che ha uno sguardo forse un po' meno provinciale del mio o di chi mi sta ascoltando, non perché sia ignorante, perché non ci sono strumenti di collazione, di confronto probabilmente così pensati e meditati. Tobias Piller, buongiorno. Buongiorno. Tobias Piller è il corrispondente del Frankfurter Allgemeine Zeitung, è stato presidente della stampa estera per 4 anni. Tobias, proprio al di là di ogni pregiudizio, tu trovi in linea con quelli che sono i modelli di informazione più conosciuti nei grandi paesi in cui le democrazie sono molto collaudate, in cui l'informazione probabilmente ha canali più austeri e meno legati al pettegolezzo, quello che accade nei nostri palazzi del potere? Ha un fondo di ragione Grillo, secondo te, oppure è solamente una sorta di antica presa di posizione nei confronti di chi fa il suo mestiere? Sì, ma da un lato è impensabile chiudere il Parlamento, perché il Parlamento è proprio rappresentanza del popolo, è anche il luogo della discussione, è il luogo della costruzione della volontà popolare che poi porta a decisioni. E in questo senso il Parlamento tedesco, il nuovo Reichstag a Berlino, ricostruito da un famoso architetto inglese, Foster, è stato costruito così che pure i visitatori che vengono lì guardano tramite vari vetri fino dentro la sala della plenaria, così per dare questa idea che il Parlamento deve essere trasparente. Certo, sia in Germania sia in altri parlamenti ci sono delle zone che sono riservate per i soli parlamentari. Mi ricordo anche, essendo stato assistente di un parlamentare inglese al House of Commons quando ero studente, mi ricordo anche lì c'erano delle zone dove neanche gli assistenti potevano andare senza essere accompagnati dallo stesso deputato. Io penso che quello cui alluda Grillo però è una sorta di amicale promiscuità che c'è sempre stato fra la stampa parlamentare e, diciamo, i parlamentari stessi, che a volte è stato utile per chi avesse avuto bisogno di far trapelare, passare notizie, messaggi in codice, e oggi probabilmente viene considerato come un pericolo a chi non conosce bene quei codici, quelle maniere di rapportarsi, quei patti non scritti e non detti. Certo, non hai questa impressione anche te? Andiamo per gradi, certo, in quel senso forse la stampa italiana è stata usata anche di più nella Prima Repubblica per messaggi cifrati, per cose tra le righe, per lanciare delle ballon de sé e tutto quello. Ma devo fare un paragone per gradi, io trovo, almeno paragonato con Berlino, la stampa italiana è molto più dietro al gossip, al pettegolezzo, e questo anche di nuovo a due lati, perché forse c'è poca discussione sui fatti, ci sono pochi fatti, c'è poca comunicazione fattuale, e dall'altro lato anche interessa tutto quello morbido, personale, pettegolezzo, molto di più, e che mi sembra anche un limite della soluzione della crisi al momento, perché se si andasse a discutere su paragoni con altre economie, altri paesi, dovunque siano, se si andasse a discutere di numeri, di metodi, di come uscire dalla crisi, è certamente un'altra cosa, ma la stampa lì mi sembra è un limite sia dei politici ma anche della stampa, si limita a cercare gossip. Tobias, l'ultima domanda che mi interessa, sempre da un tuo punto di vista, tu hai un occhio, diciamo, vedi quello che accade in Italia, ma frequentando da tanto tempo anche la stampa estera, hai modo di paragonare. L'importanza, la centralità, il clamore attorno all'uso integrato dei social media, i tweet dei politici, i tweet dei giornalisti che rispondono ai politici, i giornalisti che fanno notizia del tweet del politico, questo meccanismo lo ritrovi anche in altri paesi o è propriamente nostro questo uso un po' fanciullesco e un po' anche esageratamente legato a qualcosa che dovrebbe accadere come realtà, quando in realtà è semplicemente gioco dei social media? Twitter per primo, in Italia c'è questa idolatria di Twitter. Ma i tweet vengono usati anche in altri mondi, ma se si utilizza in modo fanciullesco, come appena detto, è una cosa, non è un fine a sé, è un altro strumento di comunicazione che può essere utile, ma se non c'è la sostanza si comincia a giocare intorno a delle cose che che sono poi giochini e non hanno contenuto. Grazie mille Tobias Spiller. Gianluca, primo ascoltatore, buongiorno, 800240024, come la pensate? Se il nemico vi ascolta occorre tacere, tirare giù le barriere o invece parlare molto, proprio perché ci ascolta? Gianluca. Sì, buongiorno. Senta, io ieri ho seguito insomma, questo caso della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle. Devo dire che io avevo colto un'altra sfumatura, cioè io ho pensato semplicemente che forse anche perché sono degli inesperti insomma del Parlamento, però l'idea è che avere delle persone che magari ti girano intorno in un posto di lavoro, cioè è chiaro che deve avere delle regole, siano essi giornalisti o chiunque, se io entro in un museo non posso entrare dovunque. Cioè non la vedo così grave questa cosa. Cioè lei dice in realtà questa sorta di... In realtà il problema è logistico, nel senso è chiaro che se un giornalista è autorizzato a entrare in un nel Parlamento o in altro ufficio pubblico, che ci siano delle limitazioni non mi sembra niente di eccezionale, mi sembra una cosa normale. Beh, diciamo che tutto il resoconto parlamentare è fatto proprio perché ci sono persone brave che circolano per i corridoi, che prendono dichiarazioni. Fu inventato, adesso sì. Oggi ricordarlo sembra... Ma Augusto Minzolini è quello che ha inventato questo tipo di giornalismo. Era bravo, si appostava, arrivava, conosceva le persone, faceva dire le battute, poi scriveva un pezzo. In realtà il pezzo però era significativo di un pensiero che circolava al di fuori delle dichiarazioni ufficiali, delle veline. Aveva il suo senso, ha il suo senso, se no il giornalista ci sta a fare. Diventa un trascrittore di veline. Grazie Gianluca. Andrea Rossetti, buongiorno, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Andrea, cosa che fare con il pensiero digitale, l'idea della chiusura nei confronti di un nemico che potrebbe ascoltarci? Beh, direi proprio niente, no? Insomma, come dimostra peraltro anche i recenti fatti americani, nella cultura digitale non si può fermare nulla, non si può bloccare nulla, non si può pensare davvero di mettere un bavaglio, non si può neanche non permettere allo Stato di monitorare, come è successo negli Stati Uniti, parte dell'attività dei cittadini. Quindi questa idea di poter chiudere semplicemente la fuga delle notizie che non si vorrebbero espellendo i giornalisti dal Parlamento è quantomeno ingenua, insomma, è quantomeno anacronistica. Soprattutto se sostenuta da un movimento che ha fatto sempre della rete, della trasparenza, della possibilità di accesso alle informazioni il suo cavallo di battaglia. Ricorderete, no? I primi grillini arrivarono in Parlamento con un apriscatole, se non ricordo male, no? Perché era una scatola da aprire il Parlamento. Ecco, improvvisamente invece il Parlamento adesso diventa una scatola da chiudere. C'è una cucitrice al posto dell'apriscatole, un sigillatore. Ma come se fosse possibile, ripeto, insomma, ormai moltissimi parlamentari hanno disintermediato i giornalisti e gli uffici stampa comunicando con Twitter, comunicando con Facebook, attraverso i blog personali gestiti direttamente o indirettamente. Quindi pensare effettivamente di poter mettere una pezza al malcostume che si è diffuso semplicemente tenendo sotto controllo, allontanando da alcuni luoghi giornalisti, fisicamente, no, da alcuni luoghi giornalisti, è veramente un'idea bizzarra, quantomeno, insomma, ingenua, semplicemente che non avrà l'effetto desiderato. Ecco, io, siccome di questa cosa l'ho lanciata già da ieri sera nei vari social media, dicendo, già arrivano le reazioni, naturalmente, di irritazione, come ti permetti dare lezioni, non hai capito nulla. Poi non voglio dare lezioni, questa mattina vorrei rifare un punto, se possibile, su quello che significhi comunque vivere il proprio tempo, respirare il flusso del proprio tempo, confrontarsi secondo gli strumenti del proprio tempo. E quanto ha a che fare il tipo di chiusura, dire chiuditi, non parlare, stai zitto, taci, guardati intorno, potresti essere circondato da nemici. Io penso, Andrea, che in realtà essere circondati da persone, nemici fra virgolette, che la pensano diversamente da te, è una grande ricchezza, anzi, tutti vorrei conoscerli, con tutti vorrei confrontarmi. Ma certo, è proprio questo l'idea della democrazia, no? È come diceva Stuart Mill, insomma, il famoso filosofo, economista, liberale inglese, insomma, quando parlava di mercato delle idee, no? L'idea è che tutte le idee, ma tutte, anche quelle più orrende, anche quelle più disgustose, debbono poter liberamente circolare, perché semplicemente dal confronto potrà venire fuori l'idea migliore. Le idee disgustose verranno accantonate perché appunto disgustose, perché non condivisibili, perché false in alcuni casi. Però è questo, senza questo mercato delle idee, senza questo continuo confronto, che è un confronto ideale, per carità, noi sappiamo che la realtà poi funziona in maniera diversa, però idealmente senza questo confronto non c'è vera conoscenza e senza conoscenza non c'è democrazia, perché non bisogna dimenticare che un presupposto delle democrazie occidentali moderne è il fatto che i cittadini possano conoscere, almeno fino a un certo punto, quello che accade nel Parlamento, quelle che sono le cose di cui si discute, no? Come viene gestita la res pubblica. Di conseguenza negare la possibilità dell'accesso ai giornalisti, non a caso la stampa è considerata il quarto potere, no? È semplicemente è un modo di portare una ferita all'idea di democrazia che si è diffusa in Occidente da un paio di secoli a questa parte. Giorgio, ascoltatore Giorgio, buongiorno. Giorgio? Sì, ci sono, mi sente? Sì, certo. Perfetto, io secondo me travisiamo una cosa, in Italia manca un po' quel ruolo dei giornalisti che gli americani chiamano watchdog, quindi inseguire la notizia ma per dare fastidio alla politica e per informare il cittadino. Molto spesso quello che passa dal Parlamento, sia nei luoghi preposti, sia da il caso come ha citato lei di Minzolini, è quello di cercare un po' il gossip o il tra le righe, ma non per informare il cittadino quanto per giocare sul personaggio politico. Questo ruolo, insieme a quello di gatekeeper, sempre per usare un termine inglese, quindi di selezionatore delle notizie, io nel giornalismo televisivo lo vedo poco, un po' di più nella carta stampata e ancora un po' di più in quello radio televisivo. Sì, ma io voglio essere in questo equilibrato. Quello che dice Grillo ha un fondamento di realtà, ce l'ha. Lui dice: proprio adesso che arrivano i miei, che sono così sprovveduti, così poco attrezzati, così poco diciamo legati al sistema dell'informazione, che è un sistema complesso, un sistema in cui vige anche la regola del ti do una notizia, in cambio ti dico quest'altra cosa qua, tu mi dici questo, tu mi dici quello. Quindi noi siamo, dice, il bersaglio più fragile di questi, che comunque ormai sanno come destreggiarsi, come muoversi. Quindi ogni stupidaggine che noi diciamo improvvisamente diventa notizia. A me, al contrario, direi, metterei un senso di fierezza in questo, un senso di orgoglio. Il fatto che siamo gli ultimi arrivati, sono quelli in cui il sistema fallibile, perfezionabile, criticabile quanto vuoi, del rapporto fra media e informazione, ci prende proprio noi di bersaglio. Invece mi sorprende un po' il fatto che si ricorra a una tipo di iconografia, soprattutto quello che mi sconvolge, così antica, così legata a periodi passati. Il manifesto di Boccasile che ho citato, poi entreremo più nel dettaglio, una persona ci racconterà esattamente il periodo storico in cui fu prodotto. Era un manifesto commissionato dal Minculpop, dal Ministero di Cultura Popolare, proprio in un momento in cui era importante gestire il dissenso interno. Quindi non è esattamente lo strumento che porta alla trasparenza, alla leggerezza, al senso anche di andare contro, che dovrebbe essere proprio una forza politica giovane, a quello che è un sistema consolidato e probabilmente anche legato a dei compromessi. Mario Molinari, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno Gianluca, ciao. Senti, chiamavo per due motivi abbastanza semplici ma abbastanza interessanti, credo. Mi scuso per la voce. Il primo è che l'articolo della Costituzione numero 21 recita che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e questo vale per tutti, quindi già vacilla la crisi di Grillo. Il secondo è che un taci, il nemico ti ascolta, è ancora più grave, se possibile, perché il giornalista, ricordiamo, lavora per tutti, per l'opinione pubblica, non è il referente di qualcuno. Quindi il nemico per Grillo chi è a questo punto? L'elettorato, l'opinione pubblica? Qual è il nemico che ascolta quello che i giornalisti riferiscono, mi chiedo? Io penso, immagino, dico, Mario Molinari è un collega, è un giornalista, lo dico perché così è più chiaro il quadro della sua domanda, dovrebbe rispondere lui. In realtà è sin troppo attaccabile quella frase da questo punto di vista, è logico vedere una sorta di nemico generalizzato nel giornalista che ti ascolta, è abbastanza puerile, per questo l'iconografia è significativa. Anche per Boccasile il nemico era il bieco, brutto, leggermente negroide, soldato straniero, ti ascoltava. E era riferito una serie di altri messaggi in cui diceva questa cosa, anche al pericolo di parlare con il tuo vicino di casa, potrebbe essere un informatore, potrebbe essere una spia. È il senso del complotto. C'è un grande complotto di persone che tramano contro noi, i buoni, i puri, gli incontaminati, e quindi bisogna stare attenti. Ma proprio su questo vorrei confortarmi e confortarti e confortarci con un parere tecnico-scientifico. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Giuseppe Neri, presidente Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Cosa esiste dietro la paura, la fobia del fatto che ci sia sempre un nemico che potrebbe spiare le nostre mosse? Beh, mi viene in mente quello che scrive uno dei padri della psichiatria, Emil Kraepelin, che già nel 1899, parlando di paranoia, diceva: è un insidioso sviluppo di un sistema delirante, permanente e incrollabile, che origina da cause interne. E cos'è questo delirio? È un'alterazione del giudizio sulla realtà che non è né modificabile né tangibile dalla critica e dall'esperienza. E cosa siete voi giornalisti? La critica e l'esperienza. Quindi in un sistema delirante il rischio che la critica e l'esperienza possano entrare in gioco e inficiare questo sistema che è fuori di discussione, penso all'idea di Grillo, è pericolosissima. Se uno con un disturbo di io grandioso, molto efficace, molto efficiente, molto prestazionale come Grillo, corre il rischio che la critica e l'esperienza entrino in campo, allora tutto il castello cade e allora va difeso anche con i manifesti di Boccasile. Quindi è proprio una lettura, diciamo, legata a una età della vita giovanile, puerile, che vede il mondo dell'esperienza, della critica come un mondo comunque contrario, nemico per principio, per diritto, proprio perché dice contro, io che mi devo espandere, devo conoscere. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo riflettendo quanto appartenga alla cultura contemporanea, fatta di condivisione, fatta di delocalizzazione, fatta di confronto, fatta anche di capacità di gestire anche il dissenso, anche l'opinione diversa attraverso gli strumenti di web e socializzazione, l'antico riferimento al manifesto boccasiliano di ispirazione fascista, tacete che il nemico vi ascolta. Leggo qualche sms dimostrando di sapere gestire il dissenso. Non diciamo cazzate, giornalisti, l'informazione è tutta prezzolata, è un'idiozia, è tutta libera. Esistono delle possibili distinzioni, c'è cioè chi fa bene il suo mestiere, chi fa mediamente bene il suo mestiere, chi fa pessimamente il suo mestiere. Poi Nicoletti, vaffanculo naturalmente, tu la tua trasmissione non ha nulla che spartire con un qualsiasi messaggio culturale, sei uguale a tutti gli altri. Sto cercando semplicemente di approfondire, chiedendo a delle persone che hanno ragione oggettiva di competenza nelle loro singole discipline cosa ci possa essere dietro a questo richiamo. Non è un richiamo indifferente. Riferirsi a un'iconografia è un messaggio molto forte e rivela anche inconsapevolmente rispetto a chi fa questo riferimento degli sottostrati di pensiero che mi va di sviscerare e di comprendere questa mattina. Un altro mi scrive: lei ha ragione su Minzolini, infatti lui poi ha fatto carriera che ha fatto anche grazie alle sue conoscenze e ai suoi favori. Può essere senz'altro vero, Minzolini è un senatore, Minzolini è stato direttore di un importante telegiornale, Minzolini è stato al centro di discussioni di varie questioni, però resta il fatto che ha inventato una maniera, o perlomeno è stato il primo ad usare una certa maniera spregiudicata di prendere, estirpare, sgraffignare dichiarazioni facendo l'amico ai parlamentari e poi mettendogli sul giornale esattamente il giorno dopo, e questo è un meccanismo che oggi ancora funziona. Sergio, buongiorno, un ascoltatore. Buongiorno signor Nicolini. Nicoletti. Lei ha citato il manifesto di Boccasile, il nemico ti ascolta, l'uomo sì. Con la mano all'orecchio, sì. Credo. Uno dei tanti che sono stati fatti. Sì, ecco, vorrei dirle per regolarità che anche durante dalla parte alleata, io ricordo un manifesto con una scena di naufragio e con la parola someone talked, qualcuno ha parlato, e c'era un uomo nel mare che nuotava ed era un manifesto inglese o americano, era l'uguale contrario, someone talked, qualcuno ha parlato o parlò. Che è tipico, diciamo, in periodo di guerra di certo, mantenere la riservatezza, sì. Soprattutto il problema era quando il militare tornava in licenza, uno dei manifesti Boccasile, infatti vede un militare a un bar che parla con un civile e accanto c'è un signore tipico, a spia, col giornale aperto che li ascolta. Tu militare e torni, non dare informazioni sul tuo reggimento, su quello che state facendo, sulle operazioni, che può essere usato in maniera negativa. Proprio per questo, visto che lei ha sollevato il problema dei manifesti, anche qui vorrei un approfondimento coerente da una persona che conosce la materia. Noi parliamo semplicemente per fugaci ricordi o per notizie sgraffignate in rete. Professoressa Anna Maria Isastia, buongiorno. Buongiorno. È docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Ci fa brevemente una storia del manifesto in tempo di guerra del "tacete, il nemico vi ascolta". Grillo nel suo blog fa riferimento chiarissimo a quello di Gino Moccasile, del soldato inglese con la mano all'orecchio. Lì scrive sopra: "tacete, i giornalisti vi ascoltano". Ma cosa c'è dietro? Qual è il clima che si respirava contemporaneamente alla affissione nei muri d'Italia di questo manifesto? C'è tutta una cultura della guerra e della paura del tradimento, non sono soltanto manifesti, sono anche cartoline. A partire dalla prima guerra mondiale, poi si è incrementato al massimo nella seconda, questo concetto di veicolare la paura che la persona che ti sedeva accanto poteva essere un traditore, quindi taci, non parlare, non raccontare. Io ho qui davanti a me un manifesto della prima guerra mondiale. La Quinta Armata realizzò una serie di cartoline in cui proprio si diceva: attento fante, non parlare, i traditori interni aiutano il nemico, non dire niente perché la tua famiglia potrebbe praticamente essere rovinata da una tua parola detta in maniera superficiale. Quindi questo concetto della propaganda di guerra che mira a diffondere la paura del traditore interno nel tuo palazzo, a casa tua, sul tram, al bar, in ufficio. E allora la donna che va a lavorare o che va semplicemente al mercato e che dice: mio marito si sposterà dalla tale postazione per andare verso quella tale collina o quella tale provincia in guerra, se ascoltata da un nemico potrebbe provocare la catastrofe di quel battaglione o di quel reggimento in guerra. Allora mi scusi, professoressa, sì, in realtà la citazione che viene fatta non è un messaggio lanciato ai giornalisti in quanto nemici, ma lanciato verso l'interno: attenzione traditori tra di noi. Sì, sì, ma è impressionante che Grillo utilizzi propaganda di guerra fatta verso gli italiani, militari e civili, contro la paura di una sconfitta causata per colpa mia, sua, e lo utilizzi all'interno di una propaganda politica in Italia in piena pace. In piena è quello democrazia. Che fa impressione, perché la propaganda di guerra, che ripeto già è presente come il concetto del traditore, guai per esempio durante la prima guerra mondiale ad avere un parente tedesco o aver avuto rapporti di lavoro con i tedeschi, perché diventavi automaticamente un traditore. Sarebbe come dire oggi: guai avere un parente giornalista a questo punto. Sì, perché a questo punto sei un traditore. E durante la seconda guerra mondiale poi si moltiplicano cartoline e manifesti. C'è per esempio una cartolina incredibile di una vecchietta col fazzoletto in testa che dice: tacete, potreste far morire mio figlio in guerra. Ora, se hai un figlio di 20 anni è difficile che tu ne abbia 60 nel 15, però è il concetto: la mamma addolorata, tacete, non tradite mio figlio. Mi sembra fondamentale. Io ringrazio la professoressa Isastia che ci ha dato un quadro così completo, che però mi dà ancora elementi più stuzzicanti per analizzare il retropensiero di questa citazione. Andrea Rossetti, torniamo con te, che ti ho fatto ascoltare fino adesso. Da questa ultima deduzione si scoprono, diciamo, altri messaggi non detti, non letti. Quindi questo manifesto, che tutti hanno letto oggi come una sorta di attacco contro la stampa, in realtà è un messaggio fra le righe ai traditori interni. Ma effettivamente la lettura che ci ha fornito chi ha parlato prima di me è davvero una lettura credibile. È chiaro che la comunicazione non è mai comunicazione a un solo livello, insomma, ed è anche vero che Grillo è un abile comunicatore, su questo non c'è il minimo dubbio. Io non so se sia l'interpretazione corretta, però effettivamente è davvero efficace, anche perché abbiamo visto che recentemente proprio all'interno del partito delle 5 Stelle ci sono molte defezioni, insomma in realtà il partito, non partito, insomma come chiamalo come vuoi, il movimento, sta iniziando un po' a sfaldarsi. In questo senso potrebbe effettivamente essere un messaggio a coloro che da dentro minano l'apparente compattezza del movimento, delle idee fondamentalmente di Grillo. Diventa comunque incredibile dal punto di vista concettuale appunto questo messaggio per l'idea che noi abbiamo di democrazia, no? Come dicevamo prima. E di rete anche soprattutto. E di rete, sì, qui io non farei una grande distinzione perché ripeto, l'idea che noi abbiamo di democrazia è un'idea strettamente connessa all'idea di pubblica opinione. La pubblica opinione oggi si forma anche, non solo anche, ma attraverso la rete, non tutta la pubblica opinione forse, insomma, ma sicuramente anche attraverso la rete. Quindi andare a toccare la maniera di comunicare, il modo di comunicare significa anche modificare l'idea di democrazia. Al di là peraltro di quella del mito che viene spesso venduto dai grillini della democrazia diretta, perché qui come dovrebbe essere la democrazia diretta a questo punto? Cioè noi dovremmo parlare singolarmente con ogni singolo grillino che ricopre qualche posto istituzionale? Ma francamente io ci ho provato e quando ho fatto domande sono stato costantemente bannato o dal gruppo o dal profilo di Facebook o dall'account personale, quindi diventa davvero bizzarro, no? Ho una democrazia diretta in cui io però non posso interagire direttamente con coloro che ricoprono cariche pubbliche e neppure i giornalisti possono interagire con loro. Ci dobbiamo evidentemente, secondo Grillo, limitare ad ascoltare ciò che viene pubblicato sul blog o ciò che viene ufficialmente comunicato attraverso le veline che ci vengono fatte passare. Caspita, questa è proprio l'antitesi della democrazia. No? Mi spiace, continuano a mandare messaggi dandomi l'onta di fare degli attacchi diretti. Io sto semplicemente analizzando un'iconografia, perché secondo me dietro un'iconografia, quindi una rappresentazione simbolica, si celano molti significati che vale la pena di sviscerare questa mattina. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo guardando cosa si celi dietro l'iconografia del tacete, il nemico vi ascolta, sollevata in un post nel blog di Beppe Grillo ieri, che se la prenderà con i giornalisti, ma da quanto stiamo vedendo in realtà esiste molto dietro. Mi ero soffermato con la professoressa Anna Maria Isastia, che è docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, su il significato storico dell'iconografia a cui fa riferimento Grillo, però piacerebbe sapere ancora una cosa in più, proprio specificamente a quest'ultimo manifesto. Lei ci ha già detto che c'è una tradizione iconografica, l'Italia turrita, che nella prima guerra mondiale dice tacete il nemico vi ascolta, e ancora non si parla di fascismo, ma in particolare questo manifesto proprio degli ultimi tempi, dell'Italia era già in guerra, c'era già in sé il seme di una possibile guerra civile, quindi a questo doveva mettere mano, arginare, o su questo comunque era il motivo della grande preoccupazione di qualcuno potesse parlare col nemico? No, io direi che proprio è un manifesto di guerra nei confronti del nemico esterno, non del nemico interno. Però voglio dire, Grillo si sente in guerra e allora tutti noi facciamo parte di questa guerra? È un manifesto di guerra e allora taci perché se per motivi di lavoro hai letto o sentito qualcosa, poi magari ti vedi col fidanzato o la fidanzata e gliene parli, non sai a chi poi questa persona riferirà la notizia. Taci se hai notizie di armamenti, se lavori in una fabbrica. Taci qualunque cosa, perché al nemico può essere utile ogni notizia che riguardi l'organizzazione bellica. Ma il Movimento 5 Stelle è un'organizzazione bellica? Beh, oddio, si è iniziato il trionfo, è iniziato con un arrendetevi, siete circondati. E quindi è un'organizzazione bellica, ma questo manifesto vale più di 1000 parole. Quindi è d'accordo che valeva la pena di approfondire proprio il significato dell'iconografia? Io sono rimasta incredula quando ho visto quell'immagine, perché ne conosco bene il significato. E veramente mi ha colpito, sono rimasta a guardarla esterrefatta. In effetti chi appartiene a una generazione come la mia, che ho quasi 60 anni, lo lega a una sorta di pregiudiziale censura su quell'iconografia, non se ne è parlato per tanti anni, non si sono fatti vedere perché rappresentavano proprio qualcosa che apparteneva radicalmente a un passato che andava rimosso. Oggi siamo più sereni in questo tipo di giudizio, però ritirare fuori questo manifesto non può passare inosservato. E mi sono meravigliato un po' che oggi in realtà negli organi di stampa c'è stata una grande difesa della categoria dei giornalisti, ma nessuno ha profondamente riflettuto su quello che era la riesumazione di un certo tipo di iconografia. Sì, effettivamente forse sono troppo giovani i giornalisti in questione e non hanno collegato. Grazie professoressa. Beh. Domenico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io se potevo esprimermi volevo dire questo, che dal mio punto di vista Grillo magari ha dei toni sempre un po' forti, no? Però non è che non ha nessun esercito, secondo me, dietro alle sue spalle. Probabilmente tira delle bombe in modo di far saltare fuori delle attenzioni verso il movimento, che poi, tutto sommato, poi si riflettono sempre in queste discussioni, titoli di giornali e tutto quanto, e lasciano sempre indietro invece le cose che il movimento ogni volta propone. Poi credo che... Questa mattina non c'ho proprio nessuna voglia di parlare di Grillo perché non mi interessava. Rifarsi a un certo tipo di iconografia non può passare inosservato. Se è fatto, come dice lei, in una sapiente strategia di richiamare attenzione, ha richiamato attenzione. E io faccio parte del... Però io non sono in grado di parlare, diciamo, del titolone che ha fatto Grillo. Posso dire sull'informazione che il disturbo in Parlamento, per l'appunto, dei giornalisti potrebbe essere anche valido, no? Nel senso, lei è lì che sta lavorando, se io fossi un giornalista entro, busso e mi faccio una domanda, magari va ai servizi, va a berci un caffè, corridoio. Ha mai passeggiato per la buvette, per le stanze? Sì, certo. Non si vede un gran lavoro, dico la sincera verità, di gente che proprio si massacra dal lavoro, c'è gente che chiacchiera, che fa i suoi affari, che tiene le sue relazioni. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Mi sentite? Sì. L'ascolto. Sì, io ho trovato le dichiarazioni della professoressa in merito all'iconografia fascista veramente assurde. Beh, assurda, è una docente di storia contemporanea. Lei da quale... Sì, docente, ma le mi faccia parlare. Quel che dice è anche essere vero, ma è un volere indicare il dito che indica la luna senza guardare la luna. Cioè? È un volere spostare il Movimento 5 Stelle alla guerra, al fascismo, in maniera veramente strumentale e anche... completamente sbagliato e assurdo. Guardi, proprio. La professoressa ha risposto alla mia domanda, in quanto tecnica. Le ho mandato. Sì, qual era? Mi faccia parlare, Matteo, poi la faccio parlare. In quale clima si è creata e maturata questa iconografia? Lei mi ha raccontato il clima in cui si è maturata. Io ho detto semplicemente è stato fatto riferimento a un'iconografia che era ispirata e apparteneva a questo clima. Sì, ma poco ha sentito parlare di dichiarazioni di guerra da parte del Movimento 5 Stelle, a fare delle allusioni veramente... secondo me ipocrite e sbagliate, perché se si vuole analizzare qual è il punto, lo analizziamo, qual è il rapporto dei media in Italia, come immaginiamo il 67esimo fosse libertà di informazione, se vogliamo analizzare queste cose... No, io non voglio analizzare questo, non voglio diluire il problema, lo centro sull'iconografia, ho detto perché è stato... Non guardare il dito che indica la luna. Ma bene, perché allora le faccio io una domanda. Sì. Lei troverebbe normale se in una reazione del suo giornale degli abbonati, quindi nemmeno degli estranei, degli abbonati al Sole 24 Ore, origliassero le redazioni del vostro giornale e poi trascrivessero, twittassero in relazione a degli screzi sulla linea editoriale del vostro giornale? Lo trova normale? O se le persone al loro posto? No, oppure il Parlamento non è un luogo di lavoro? Ma è un luogo di lavoro, ma il giornalista parlamentare, il suo lavoro è riferire quello che accade. Poi... è riferire quello che accade, non riferire di per far passare un messaggio che non è quello che vogliono far passare i parlamentari. Ma i parlamentari quindi hanno ci tutti... dovrebbero d'accordo, sì, cosa deve uscire? Devono uscire i pettegolezzi. Ma perché si scalda così? Mi scusi, perché si scalda così? Ho sentito delle amenità da quella professoressa di voler accostare il fascismo e quell'immagine e dare un scusi, ma se uno fa 5 Stelle. Di guerra sfondata, il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato contro ogni guerra, contro l'acquisto degli F-35, un movimento a Gandhi e lei me lo accostano ma non è vergognoso, stia tranquillo, ma perché ha questa animosità? Come sto tranquillo io? Io difendo le mie idee o faccio le mie domande, ma non è che... di capire che cosa si vuole raccontare, se si vuole continuare a indicare il dito e indica la luna o si vuole. Ma questa frase non vuol dire assolutamente nulla, la citano in tutti gli status di Facebook. È un luogo, che vuol dire il dito? In questo momento io sì, guardo il dito, si fa riferimento. E se si guarda il dito, qual è l'obiettivo? Un'altra parlare volta dei contenuti o parlare della forma? Ci soffermiamo sulla forma. Scusi, no, Matteo, guardi, se vuole, siamo vicini alla sigla, forse ma che io la voglia segare. Non è così. Si fa riferimento a una particolare tipo di iconografia. Dietro l'iconografia esiste un messaggio. Ho semplicemente cercato di capire perché è stato fatto riferimento a questa iconografia. Se è stato mostrato un manifesto fascista di un periodo in cui si diceva che bisogna fare grande attenzione al nemico interno, ho semplicemente detto questo. Questo è innegabile. Che poi ci sia una luna di cui poter parlare. Potremmo parlare anche della luna, ma a un minuto dalla chiusura non posso parlare della luna. È innegabile che il riferimento sia stato fatto a questo. Poteva mettere un manifesto di Gandhi e dire una citazione di Gandhi. Non lo ha fatto. Io parlo di quello che ha fatto. Non ho nessuna animosità contro Grillo. Faccio il mio mestiere, osservo e provoco riflessioni di pensiero, non faccio propaganda. Andrea Rossetti, una conclusione. Sì, tranquillo. Stuart Mill, ancora come che ho già citato prima, non è una conclusione molto allegra, devo dire. Stuart Mill dice: il valore di uno Stato a lungo andare è il valore dei singoli che lo compongono. Grazie Andrea Rossetti, grazie a quanti hanno partecipato a questa trasmissione. Ripeto, mi dispiace per l'ascoltore ultimo che si è così offeso, se l'è così presa, ma è significativo uno stato d'animo. Si può parlare con tranquillità, vivere la contemporaneità, la modernità, è vivere anche il dissenso, avere orgoglio del dissenso. E più un mezzo importante di informazione che appartiene al cosiddetto potere costituito ci cita, parla male di noi e ci attacca, e più dobbiamo sentirci orgogliosi. È nell'essere ignorati la vera scomunica, la vera pena che veniva inflitta all'eretico è quello di essere scomunicato. Il domani che sarai scomunicato nessuno più parlerà di te e tu non potrai parlare più a nessuno. Quella è la vera morte. A domani.